qual è la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione nel momento in cui decidiamo di affittare un'automobile? Partiamo un po' dal preventivo che ci fanno. Beh, il preventivo è essenziale perché bisogna tenere conto di tutte le voci che sono comprese, per evitare poi delle brutte sorprese al momento in cui si paga la fattura finale. Per cui bisogna guardare molto bene sia che si prenoti via internet, sia che lo si faccia con altre modalità in agenzia o sul posto, che siano comprese il chilometraggio illimitato, tutte le assicurazioni, in particolare se esistono delle franchigie sulle assicurazioni, quindi delle quote in caso di danni a carico di chi noleggia la vettura e se ci sono degli extra, per esempio se è prevista la riconsegna della vettura col serbatoio di carburante pieno o vuoto, Questo è perché considerato un sono extra? tutte delle penali Ah. in più. No, ma mediamente mi sembra che sia obbligatorio comunque riconsegnarla con il pieno. Se non lo si fa, si pagano delle penali. Sì, ma ci sono delle opzioni per cui puoi riconsegnarla vuota e il pieno ti viene addebitato a una tariffa forfettaria che di solito è inferiore a quella del costo del carburante vero e proprio. Però è un'opzione, la fuel option, che devi decidere al momento del noleggio. Molto importante, per esempio, capire se è prevista la possibilità di un secondo guidatore o se invece bisogna pagare un'estensione per l'extra driver, e a quel punto è fondamentale perché sennò se facciamo guidare nostra moglie o un amico rischiamo di non essere assicurati. E Infatti. poi tu hai parlato di carte di credito, c'è un aspetto molto importante. La cifra di cauzione viene bloccata sulla carta di credito. Se noi abbiamo un massimale, rischiamo poi di avere solo la cifra residua come disponibilità da spendere successivamente. Infatti, e Mi spiego, mediamente immaginiamo di così. avere una carta di credito con 2.500 euro di tetto massimo di spesa, ce ne chiedono 1.500 di cauzione, quei 1.500 lì sono bloccati, non possiamo più spenderli e da quel momento avremo a disposizione solo 1.000 euro di saldo residuo utilizzabile. Quindi Benissimo. attenzione a non giocarsi tutto al momento del noleggio.